Rose Wilder. A 18 anni, Laura Ingalls, indimenticabile autrice nonché protagonista del ciclo di romanzi più amato del mondo, La casa nella prateria, sposò Almanzo Wilder. Un anno più tardi, nel 1886, nacque la figlia Rose. La piccola famiglia conduceva una vita durissima e attraversò una serie di disastri da cui usciva lavorando fino allo sfinimento. Come narrato in I primi 4 anni, l'ultimo volume del ciclo della casa nella prateria, presente per intero su questo canale YouTube, di cui lasciamo il link in descrizione. A un certo punto, per arrotondare il magrissimo bilancio, Laura cominciò a tenere su un periodico rurale una rubrica dal titolo «Cosa pensa una donna della fattoria?». Qui scriveva la sua opinione sui lavori domestici, sull'agricoltura, sul matrimonio, ma anche sul voto alle donne o sulla loro emancipazione. È così che scoprì la vena artistica che 40 anni più tardi, ormai anziana, la portò a scrivere le sue memorie. Rose, figlia di Laura, dalla povertà della sua infanzia divenne una delle donne chiave del movimento libertario americano. Nata alla frontiera, nel territorio americano del Dakota, i suoi primi anni furono difficili a causa di una serie di raccolti agricoli scadenti e conseguenti malattie e difficoltà economiche. La famiglia si trasferì in Florida dopo essere sopravvissuta al fallimento del raccolto e all'incendio della casa, ma poi tornò vivendo in affitto per 2 anni, durante i quali Rose andò a scuola e imparò a leggere prima di partire di nuovo, questa volta per il Missouri, su un carro coperto. Lì la famiglia Wilder acquistò un appezzamento di terreno e costruì la fattoria in cui in seguito sarebbero state scritte tutte le storie della casa nella prateria. Rose andava alla scuola del villaggio a dorso di mulo. I compagni e le compagne la canzonavano per il suo abituccio stracciato. Trovando la scuola insufficiente, con il consenso di sua madre, Rose rimase a casa per istruirsi. Tornò a scuola a 8 anni, giusto pochi mesi, per conseguire il diploma di scuola superiore. Intelligente e ambiziosa, era la migliore della sua classe. Dopo il liceo fece diversi mestieri e alla fine si trasferì a San Francisco, dove ebbe un cattivo matrimonio e un aborto. Divorziò e intraprese la carriera giornalistica. Divenne una popolare biografa, scrisse tra le altre la vita di Henry Ford e di Charlie Chaplin. Si era trasformata da ragazza di campagna, scalza e lacera, in donna di mondo che dall'America viaggiò e visse in diversi luoghi anche europei, la Turchia, l'Egitto, la Palestina, Siria, Iraq, fino a Baghdad, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Albania e Russia. Alla fine degli anni 20, pur essendo una delle scrittrici più pagate negli Stati Uniti, Rose, che aveva perso i suoi risparmi durante la Grande Depressione e il crollo di Wall Street, tornò alla fattoria dei suoi genitori nel Missouri. Fu lì che ebbe l'idea geniale di far scrivere a sua madre, Laura Ingalls appunto, i ricordi della vita all'Ovest intrapresa con la famiglia. Laura, come abbiamo detto, scriveva già da 2 decenni la sua rubrica sul periodico rurale, ma grazie alla figlia fece il salto di qualità e divenne romanziera. Gli 8 romanzi della Casa nella Prateria sono il frutto della decennale collaborazione tra Laura e sua figlia Rose. Laura scriveva a mano, Rose sistemava, rettificava, editava, ribatteva a macchina. All'uscita del primo volume della Casa nella Prateria di Laura, anche Rose uscì con un romanzo, Let the Hurricane Roar, Lascia che l'uragano ruggisca, che parlava dello stesso argomento ma con un linguaggio più per adulti rispetto alla saga della casa nella prateria che fu pubblicato come romanzo per ragazzi. Di fatto questa collaborazione fu utile alla carriera di Rose quanto a quella della madre. Molti dei più popolari racconti e i suoi romanzi di maggior successo commerciale vennero scritti allora e si alimentarono del materiale preso direttamente dai ricordi delle vicende della famiglia Ingalls Wilder. Le sue opere, Let the Hurricane Roar, in seguito intitolato Young Pioneers, e Freeland, scritto a 52 anni, sono entrambe incentrate sulle difficoltà di mettere in piedi una fattoria nel Dakota alla fine dell'Ottocento e narrano come la Free Land, la terra libera, in realtà fosse un inganno che costava ai pionieri i risparmi di una vita, poiché erano costretti a indebitarsi per poter lavorare la loro terra e quando non erano in grado di ripagare i debiti, cioè spesso, subentravano gli speculatori, latifondisti, a portarsele via. Grazie alla rendita crescente dei romanzi del ciclo La casa nella prateria, Rose sistemò le sue finanze. All'età di 78 anni divenne corrispondente di guerra nel Vietnam del Sud per la festa della donna. Si definì femminista. Quando lasciò il corpo, nel 1968, a 82 anni, stava programmando un altro tour mondiale di 3 anni. Era sua opinione che le donne professioniste dovrebbero incoraggiarsi a vicenda a restare fedeli alla loro carriera, come fece lei per tutta la sua vita. Scrisse 6 romanzi. Rose Wilder è stata una delle 3 madri fondatrici del libertarismo. In clima di nascente rivolta contro l'autorità statale del modello statalista rooseveltiano, Rose trascorse i suoi ultimi anni in una fattoria del Connecticut, coltivandosi il proprio cibo e protestando contro la previdenza sociale che lei definiva un multilevel marketing, e accumulò un file di oltre 100 pagine all'FBI, che non smise mai di tenerla d'occhio. Il suo obiettivo era praticare la disobbedienza civile, vivendo fuori dalla rete e riducendo il suo reddito al punto da non dover più presentare le tasse federali. La visione genetica libertaria di Rose era basata sulla libertà di azione in antitesi allo statalismo protezionista rooseveltiano, la centralità dell'individuo, la non coercizione e la cooperazione volontaria attraverso il commercio e lo scambio. Scrisse centinaia di pagine sulla libertà individuale e sul suo impatto sull'umanità. In The Discovery of Freedom, La scoperta della libertà, del 1943, Rose promuove la libertà individuale accanto a un potere governativo limitato. Si oppose con veemenza al socialismo di Roosevelt, alla sicurezza sociale, a tutte le forme di tassazione, a tutti i programmi che conferivano sempre maggiore autorità allo Stato. Dopo aver sperimentato in prima persona il comunismo sovietico durante i suoi viaggi per la Croce Rossa, ne divenne ferma oppositrice. Le sue esperienze e viaggi le avevano insegnato che la pianificazione economica centralizzata era incompatibile sia con la prosperità che con la libertà individuale. Gli scritti di Rose riflettevano la sua crescente preoccupazione per l'ingerenza da parte del governo nelle libertà individuali, inclusa l'istruzione. Riguardo alla sostituzione dell'istruzione gratuita con quella statale obbligatoria, scrisse: La scuola americana è ora obbligatoria, imposta dalla polizia, controllata dallo Stato, cioè dai politici in carica, e pagata con tasse obbligatorie. Il risultato inevitabile è posticipare la crescita di un bambino che passa dall'autorità dei suoi genitori all'autorità della polizia. Non ha il controllo del suo tempo e nessuna responsabilità per il suo utilizzo fino all'età di 16 anni. La sua situazione attuale non gli richiede di sviluppare fiducia in se stesso, autodisciplina e responsabilità, cioè non ha una reale esperienza di libertà nella sua giovinezza. E questo ci riporta molto alla filosofia della nostra connazionale Maria Montessori. Ricorda Rose anche che i bambini americani prima andavano a scuola perché volevano andarci, non perché fosse un obbligo di legge. Da una donna così ricca di idee e capacità di azione non poteva mancare il contributo pedagogico. Sui suoi principi libertari fu fondata la Freedom School, la scuola della libertà, in cui lei stessa insegnò. Grande fu il suo effetto su una intera generazione di sostenitori della libertà. Il suo esempio e i suoi libri, Free Land e The Discovery of Freedom, ispirarono intere generazioni e cambiarono molte vite. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi, scaricato da internet dalla Bibliothèque du Québec in lingua originale e tradotto apposta per noi dalla nostra amica e sostenitrice Francesca Grandi, in quanto inedito in Italia, Let the Hurricane Roar, lascia che l'uragano ruggisca. Da Devana, buon ascolto.